dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libri Amoci Web. Libera, solidale, divertente. Tra le righe. Libri, autori, consigli di lettura e non solo, con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe. A tutti noi è capitato e capita di leggere in rete testi che, oltre alla firma dell'autore, riportano il simbolo di una C all'interno di un cerchio, il famoso simbolo del copyright, che si trova come un soldatino in trincea a difendere l'avamposto del titolare dell'opera. Per quanto riguarda le opere dell'intelletto custodite fisicamente, diciamo in supporti come libri cartacei e CD, ad esempio, ci pensa in Italia il marchio della SIAE, che per continuare la metafora militaresca è molto più che un semplice soldatino, direi che si tratta di un vero generale di corpo d'armata. Ma possono questi due strumenti, con tutto quello che c'è dietro, far fronte all'usanza che hanno moltissime persone di appropriarsi del frutto del lavoro intellettuale altrui? A giudicare dalle innumerevole quantità di pirateria, di plagio, di presunti tali che ci sono in circolazione, sembrerebbe proprio di no. Ma per saperne di più, ne parliamo a Tra le righe, qui su Radio Libriamoci Web, con l'autore del saggio E Mozart finì in una fossa comune, vizi e virtù del copyright, pubblicato da Egea, l'avvocato Fabio Macaluso. Radio Libriamoci Web. Grazie all'avvocato Fabio Macaluso per essere con noi qui su Radio Libriamoci Web. Buonasera, avvocato. Buonasera, grazie a voi. Allora, noi oggi parliamo di questo suo saggio che ha già un titolo di per sé curioso e originalissimo, che è Mozart finì in una fossa comune, con il sottotitolo di Vizi e virtù del copyright. Partiamo subito col dire che se qualcuno pensa che si tratti di un mattone si sbaglia di grosso, perché lei ha avuto il grande merito di aver scritto questo libro con un linguaggio semplice, in maniera scorrevole, anche con un tocco di ironia che non guasta, e ha reso fruibile l'argomento copyright a tutti coloro che non sono addetti ai lavori. Per quale motivo ha deciso di scriverlo? Quale esigenza l'ha spinta? Ma l'esigenza era quella appunto di divulgare su un tema che è di uso corrente e comune per tutti oramai. E io faccio un piccolo esempio. Ho chiesto a una mia amica per il compleanno dei miei 50 anni, che vive a Chicago, di regalarmi una maglietta con su scritta la frase famosissima della madre di Forrest Gump, che dice: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sa mai cosa ti tocca. E per avere la maglietta ci abbiamo messo più di 3 settimane, perché essendo il film protetto da copyright, il produttore artigiano della maglietta voleva una liberatoria dove io mi impegnavo a fare un uso personale della maglietta stessa. E quindi capite che in qualsiasi aspetto della nostra vita oggi, questo tema del copyright è un tema, come dire, che tocchiamo e non tocchiamo allo stesso tempo con mano, perché tutela dei beni immateriali che in quanto tali non vediamo, però è molto invasivo. Quindi quando noi mandiamo un'email con una foto che è tratta da un sito internet, immediatamente noi facciamo circolare un'opera d'autore che è protetta dal diritto d'autore. E il tentativo di scriverlo in maniera divulgativa è legato più a delle esperienze anglosassoni, laddove in questi paesi si divulga con molta semplicità, cosa che in Italia spesso non succede, perché l'esperto parla a un pubblico di esperti e quindi c'è un'incomunicabilità nei confronti di coloro che invece non sono particolarmente eruditi della materia e che quindi non vi si avvicinano, scoraggiati da un linguaggio troppo tecnico e difficile, cosa che ho cercato di evitare. Il termine copyright abbraccia molti aspetti che sfociano in un'unica intenzione: la tutela, la salvaguardia del diritto di autore. Quanto è difficile oggi rispetto al passato, anche alla luce della diffusione di ulteriori strumenti come internet e social network che facilitano l'accesso al lavoro intellettuale di un autore? Oggi il lavoro degli autori ha un grande vantaggio, che è quello di poter essere conosciuto più facilmente attraverso gli strumenti della rete, anche se questo è un dato da dimostrare, perché sulla rete c'è tutto, su cui c'è una folla tale di informazioni che per un giovane autore, che poi è il soggetto a cui io dedico questo libro, non è facile farsi largo tra miliardi di informazioni anche discordanti che troviamo su internet. La tutela è diventata più difficile perché la circolazione delle opere d'autore è molto più veloce ed è molto più capillare, come dicono i nostri ragazzi, è virale. Questo ha condotto, lo dico in termini quasi economici del libro, a una condizione per cui i titolari di diritto d'autore non controllano più la scarsità del loro bene, cioè il bene non è più scarso, è accessibile a tutti, spesso in maniera gratuita, e quindi l'autore e il produttore dell'opera d'autore, l'editore, chiamiamolo in termini generici editore, fanno più fatica a controllare la diffusione delle proprie opere, il che realizza una sorta di regime del permesso. Gli editori, che poi sono coloro che conducono un'attività economica, diciamo, per conto dell'autore e per conto di se stessi, provano a svolgere una serie di passaggi per cui l'opera dal mercato viene diffusa attraverso la rete o altri mezzi diffusivi, e cercano di controllare tutti i passaggi stessi attraverso cui l'opera viene diffusa. E questo è un compito molto difficile, che poi viene facilmente eluso da parte degli utilizzatori di internet. Ma in questo sistema di protezione del diritto d'autore non ci sono degli eccessi? Cioè, io ho quasi la sensazione che la cura sia peggiore del malanno. Mi sbaglio? No, non ti sbaglio. C'è un eccesso di protezione, e più che altro c'è un'assenza di focus della protezione, perché si protegge troppo. Io, come ho scritto nel mio libro, stante che la protezione che scaturisce dal diritto d'autore è una protezione automatica, quindi non è soggetta ad alcun tipo di formalità, abbiamo una quantità di opere d'autore che è enorme, eccessiva. Se mio figlio, che ha 14 anni, decide di realizzare una canzone, e questa canzone ha una sua capacità, diciamo, di distinzione rispetto alle altre, la sua opera è comunque un'opera tutelata, anche se lui non deve recarsi in nessun ufficio a depositare l'opera stessa. La tutela è lunghissima, perché vale per 70 anni dalla morte dell'autore, quindi la canzone di mio figlio potrebbe essere tutelata per circa 150 anni. Allora, questo chiaramente crea un vizio di fondo che è molto grave, leva l'ossigeno agli autori successivi, che devono rifarsi alle opere precedenti, a tutti gli autori, devono rifarsi alle opere precedenti per poter creare opere nuove originali. Quindi c'è un eccesso di tutela che è orizzontale, cioè riguarda tutte le opere in maniera indistinta, e c'è anche una capacità creativa dell'essere umano che non può essere compressa, per cui si crea tanto e si tutela tanto in maniera automatica. Questo va a danno del... Non nutre quello che è stato chiamato il granaio globale del pubblico dominio, cioè tutto ciò che noi possiamo consultare, che ha per cui la protezione è scaduta, quindi ad esempio un libro dell'Ottocento, ci può essere utile, perché possiamo richiamare quasi fedelmente un suo passo per poterlo incorporare nella nostra opera. In questa maniera invece si congela una quantità enorme di materiale che potrebbe essere messo a disposizione dei nuovi, dei giovani autori, di chi comunque è curioso e si rifà alle opere precedenti. Il saggio si avvale di molti esempi concreti per dare meglio l'idea della portata che ha la questione del diritto d'autore. Ce ne sono due che mi hanno particolarmente colpito. Uno è quello, è la querelle tra Wikipedia e l'autore Philip Roth, che ha scritto all'Enciclopedia Online affinché correggesse un errore in merito all'identità del protagonista di un suo romanzo, La macchia umana. Ci vuole raccontare come sono andate le cose e perché può succedere questo? Perché Wikipedia ha il potere di fare quello che ha fatto a Philip Roth? Ma Wikipedia, diciamo che è una una enciclopedia spontanea, anche se ha delle forme di controllo interno, per cui ci sono dei volenterosi che si aggregano e che scrivono le voci dell'enciclopedia stessa. Però trattasi di dilettanti nobili, magari alcuni molto esperti della materia, ma che comunque non svolgono questa attività professionalmente. Allora, tornando all'aneddoto, Wikipedia aveva ritenuto che un certo personaggio di Filippov fosse un certo soggetto anziché un altro. Quando Filippov ha mandato una sua comunicazione a Wikipedia informando che il personaggio in realtà, il protagonista del suo romanzo, era rifatto su un suo collega, su un professore universitario, suo grande amico da una vita, loro non si sono accontentati di questa informazione, ma hanno richiesto una conferma da parte di una fonte cosiddetta secondaria, cioè volevano che un soggetto diverso da Filippov confermasse la versione di Filippov. Quindi qui siamo praticamente a una, come possiamo dire, domina il mezzo sul messaggio. Allora, l'enciclopedia Wikipedia, un'enciclopedia autoprodotta, chiamiamola così, o autogenerata dalla folla degli utilizzatori di internet, e per cui quello che c'è scritto sopra è vero per questa ragione. Vi è un libro di uno studioso americano di cui mi sfugge il nome, che si chiama La saggezza delle folle, per cui questo autore sostiene che le decisioni che sono assunte da un largo numero di soggetti sono quasi per definizione corretta, e fa un esempio molto intrigante. Quando è scoppiata in aria la navicella spaziale, ora mi sfugge il nome, americano, circa 10-15 anni fa, la borsa americana andò a punire il titolo di un produttore di un apparato, di un aggeggio che faceva volare questo velivolo, ritenendo che fosse il soggetto che aveva determinato il disastro spaziale. Dopo mesi e mesi e mesi di indagini, in effetti fu confermato questo dato. Allora si sostiene che la folla, la comunità, sia in grado di assumere decisioni razionali e in genere veritiere, cosa che probabilmente non è vera, perché comunque sulla rete troviamo degli sfondoni, degli errori macroscopici e delle contraddizioni enormi. Quindi non è detto che la maggioranza, e questo è un tema anche politico, faccia qualità e che comunque sia atta a migliorare la trasmissione dei valori culturali nella nostra società, in altri termini. Sì, anche perché Wikipedia ha negato la paternità a Philip, cioè all'autore stesso del protagonista, e questo è un paradosso che può... Certamente è un paradosso, ma perché c'è un effetto sostituzione. Si dice la rete può tutto, la rete fa circolare miliardi di informazioni, quindi a cosa servono gli autori quando noi possiamo rifarci a un'infinita quantità di dati che, combinati fra di loro, possono dare un prodotto culturale migliore addirittura di quello dell'autore. E come ho scritto io nel libro, era una proposta avanzata da Roland Barthes negli anni 60, ma lui era un grandissimo semiologo con una capacità di lettura straordinaria, però lui ebbe una grande intuizione. Lui capì che il lettore era sostanzialmente un lettore inanimato, oppure un lettore che assumeva i caratteri di un soggetto collettivo. Probabilmente oggi il soggetto collettivo che diventa lettore e allo stesso tempo fruitore è la rete, che crea, disfa, distrugge, incensa, trascura i personaggi o gli autori di un'opera creativa e i personaggi stessi che sono inseriti nell'opera creativa, come è successo a Filippov. Il cervello collettivo di Wikipedia aveva creato un personaggio che non era quello del suo autore, che è appunto Filippov, e imponeva ai suoi lettori quel tipo di verità che in realtà non era del tutto fallace. Un altro esempio molto interessante, molto chiaro, di come funzionino o non funzionano in base ai punti di vista le cose, è quello riportato in merito alla pirateria musicale online. È un esempio che lei ha anche utilizzato con dei ragazzi all'università, no? Perché una persona che non ruberebbe mai un CD in un negozio, in rete invece si comporta in tutt'altra maniera? Ma guarda, io questo l'episodio è divertente perché appunto come dicevo io ho provato a fare questo piccolo esperimento quando do queste modeste lezioni in un'università romana e chiedo ai ragazzi appunto di andare da Feltrinelli a rubare un disco, lo stesso disco che hanno scaricato illegalmente appunto attraverso internet. Nessuno lo fa, anzi si indispettiscono parecchio, perché poi valgono anche dei principi morali o moralistici per cui il furto fisico non è ammesso. Però qui c'è un difetto di chiarezza e di legittimazione della legge, e questo è trattato nel mio saggio, perché la legge è molto difficile, perché è dispersa in varie fonti, è molto lunga. La legge sul diritto d'autore italiana ha circa 250 articoli, quindi è un tomo. Alcune delle sue norme sono incomprensibili anche agli avvocati. Io stesso che faccio questo lavoro, a volte per giungere a una conclusione in favore dei miei clienti, devo studiare qualche giorno e devo leggermi tutta la giurisprudenza, è molto molto complessa. Figuriamoci un ragazzino di 17 anni che appunto spende il suo tempo scaricando file musicali. L'altro problema è un problema di legittimità della legge, per cui la legge viene ritenuta, oltre che incomprensibile, scritta in favore dei soggetti diciamo più forti della filiera economica delle opere d'autore. Quindi una legge scritta per i produttori musicali, per l'editore oppure per gli internet service provider, e quindi che viene respinta quasi ideologicamente dai suoi destinatari, che non la ritengono giusta. Quindi se sommiamo i due difetti, legge incomprensibile più legge ingiusta, capiamo che il soggetto che tra virgolette ruba un contenuto musicale o cinematografico da internet non sente nessun tipo di vincolo morale, oppure non ha alcuna remora a svolgere questa attività, appunto perché non capisce la legge e non la teme, perché la ritiene anche ingiusta, e quindi ritiene corretto svolgere la sua attività che in realtà è illegale. Leggendo questo suo libro mi è venuto in mente un fatto accaduto a Francesco De Gregori anni fa, che è stato querelato dagli autori della canzone Zingara di Iva Zanicchi, e perché lui ha utilizzato un'intera frase, "prendi questa mano zingara", per l'inizio di una sua canzone. All'inizio è stato condannato, poi in appello è stato assolto. Quello che le volevo chiedere è questo, e lui, De Gregori, si è difeso dicendo che si trattava di un omaggio e di una citazione, non di plagio. In musica, per le armonie musicali, ci sono delle regole ben precise che dicono quanti accordi devono essere somiglianti perché un brano possa essere definito plagio di un altro. Per il testo scritto non ci sono queste regole, cioè è bastato dire no, è una citazione, anche se la frase è pari pari quella della canzone, e c'è un sottile confine tra citazione e plagio? Effettivamente c'è questo confine, chiedo. Allora, c'è un sottile confine, la domanda è molto intrigante, c'è da dire che la legge italiana e anche la legge internazionale, quella americana anzitutto, prevedono queste eccezioni della protezione nel caso in cui si svolgono delle citazioni per fini di informazioni o per fini di istruzione, e questo tipo di eccezione viene chiamato fair use oppure uso giusto, per cui l'autore successivo può inserire le parti di opere d'autore incorporarle nella propria opera, appunto se lo fa per citare la medesima per un fine di informazione oppure per favorire diciamo l'educazione, l'istruzione e quant'altro. Nel caso di De Gregori probabilmente, io non conosco il caso, ma lui ha incorporato la citazione nella sua opera, quindi ha usato un frammento di un'opera precedente per realizzare la propria opera. Qui scattano anche altri tipi di considerazioni giuridiche da cui mi vorrei allontanare, perché il tema altrimenti diventa troppo difficile. Però è probabile che De Gregori abbia realizzato un'opera derivata, ovvero abbia realizzato un'opera che è basata su un'opera precedente, dotandola di una propria forza creativa, quindi realizzando di fatto un'opera nuova, che è un tema che io ho trattato nel saggio, quando mi sono riferito a Picasso, che copiava tra virgolette le opere di Velázquez e Las Meninas, ne ha realizzate 58, ognuna delle quali aveva un'originalità tale da divenire delle vere e proprie opere d'autore ascrivibili a Picasso. Il confine con il plagio musicale in particolare, è molto sottile. E deve sapere però che i processi per plagio sono i processi nel settore di letteratura più lunghi che esistano. Per risolvere il caso di Bakalov, che si sostiene abbia plagiato nella colonna sonora del Postino l'opera di un altro autore di cui mi sfugge il nome, ci sono voluti circa 20 anni, e il processo è finito con una transazione perché non si è venuto a capo della vicenda. Non c'è scritto nulla nella legge sul plagio, per cui ci si rifà al numero di battute tipico di questi casi, che credo siano 8 note iniziali che vengono ripetute pedissequamente in maniera identica all'opera precedente, ma la materia è molto molto opinabile ed è lasciata generalmente alle decisioni dei giudici, chiaramente supportati dai periti che vengono nominati per appunto accertare che queste 8 note sono state riprodotte fedelmente da parte dell'autore successivo. Non so se ho risposto alla domanda, ma ci ho provato. Sì, sì, ha risposto benissimo. Glielo ricordo io il nome del cantautore è Sergio Endrigo. La canzone era Nelle mie notti, e in effetti l'armonia è Bakalov ha ammesso comunque, quindi questo Oscar va postumo anche a Sergio Endrigo. Il Fairuse è anche quello che usa Google per Google Books. Allora, il Fairuse è quello che usa Google per Google Books, anche se in questo caso Google ha affermato anche che fa un uso trasformativo di questi libri, per cui crea appunto distanzia la propria prestazione da quella degli editori e degli autori di cui si giova. Sinceramente si potrebbe sostenere un Fairuse per fini educativi, perché in effetti Google Books dà accesso a informazioni su tanti libri che altrimenti sarebbero, come dire, sepolti alla polvere. Però Google non è un ente benefico, lo fa per aumentare il proprio traffico e quindi vendere meglio i propri spazi pubblicitari. Quindi Google con Google Books sicuramente realizza i profitti. Vi è da chiedersi se questi vantaggi economici siano da dividere anche con autori ed editori che forniscono la materia prima. Di sicuro gli autori americani vedono questa iniziativa con molto, come dire, con sfavore, tant'è vero che hanno portato in causa Google richiedendo un risarcimento miliardario in dollari per questo utilizzo ai limiti della legalità, oltre alla legalità, lo diranno i giudici, da parte di Google delle opere letterarie che sono ancora tutelate, che sono circa 5 milioni di titoli, se non mi ricordo male. E un'altra nota dolente è la fotocopia del libro di testo, soprattutto i libri universitari, scientifici, eccetera. La legge Levi ha cercato di mettere una pezza un po' su vari argomenti che riguardano i libri indipendenti, gli sconti sui libri, eccetera. E per quanto riguarda la fotocopia, credo che sia che si può fotocopiare una parte di un libro pagando una totte somma come diritto d'autore. Ma non sarebbe meglio ridurre il costo dei libri e consentire ai ragazzi di acquistarli serenamente piuttosto che fare una cosa così, una pezza io la definisco? No, sicuramente una pezza è prevista dal diritto d'autore, per anche un limite massimo di copiatura, il 15% dell'opera che si copia, per cui si paga un equo compenso che va agli editori, no? Poi come si svolge l'attività di copiatura illegale? Che i soggetti che vogliono copiare il libro e coloro che si prestano, quindi i copisti, chiamiamoli illegali, diciamo che copiano il libro a puntate, quindi a pezzi di 15%, quindi 7 volte loro copiano il libro, e il libro ecco qua che viene confezionato e venduto, diciamo, in maniera illegale allo studente. La politica dei prezzi, qui c'è il cane che si morde la coda, perché I ragazzi dicono noi fotocopiamo perché i libri costano troppo, gli editori dicono noi siamo purtroppo tenuti a fare prezzi più elevati perché la pirateria ci danneggia e quindi dobbiamo rientrare dai danni che subiamo giorno per giorno. Io penso che la verità come sempre sta a metà, per cui probabilmente una riduzione più o meno moderata dei prezzi invoglierebbe i ragazzi a comprarsi i libri, tenuto conto che i libri di studio, soprattutto universitari, sono corredati da materiale a colori, da schede, dal DVD che trovi dentro la confezione per poter scaricare il materiale al computer, per cui ci si dovrebbe riavvicinare fra le parti, ma non è un compito facile, anche perché gli editori scientifici lamentano danni per centinaia di milioni di euro all'anno. È una perdita di diciamo che produce anche a loro dire danni occupazionali perché sono costretti a restringere il budget e quindi a tagliare gli organici. Il libro E Mozart finì in una fossa comune ha anche un sottotitolo che è Vizi e virtù del copyright. Su questo fronte però quali sono i vizi degli italiani, diciamo i più eclatanti? In materia di copyright, ma i vizi degli italiani, io per quello che vedo, diciamo che molti italiani rinunciano a godere di alcuni spettacoli come gli spettacoli cinematografici perché si chiudono nelle loro stanze davanti agli schermi più o meno grandi dei loro PC, Mac o quant'altro per sottrarre il film e risparmiare sui 10 euro, 8 euro del costo del biglietto. Vale la pena perdere un'occasione del genere, cioè non andare al cinema e magari andare a cena e mangiare una pizza mediocre che costa il doppio e perdersi appunto l'effetto magnifico, no, di un'opera cinematografica vista al cinema per scaricare illegalmente l'ultimo film, non so, con Tom Cruise? Sicuramente è una questione aperta, però gli italiani hanno una sorta di hanno grande soddisfazione a realizzare la propria cineteca. Faccio un esempio appunto quello del cinema, delle opere cinematografiche: farsi una cineteca del tutto gratuita a cui possono accedere quando vogliono. Io ho degli amici anche avvocati che mi raccontano: ah, ieri sera ho scaricato quest'ultimo film, è meraviglioso, fallo anche tu. Io non l'ho mai fatto, vuoi perché non lo ritengo corretto, vuoi perché non ho mai svolto l'esperienza per cui non so nemmeno da dove si comincia. Però questa tendenza massiccia peraltro a fare tutto in casa, quindi a sottrarre i contenuti su internet, ha due effetti negativi secondo me. Il primo appunto è che sottrae denaro all'industria culturale, la seconda è che la gente non esce di casa e se ne sta al chiuso invece di approfittare di una bella serata che può svolgere al cinema con i propri amici. C'è, in questo libro c'è tantissimo ancora da dire, ma vorrei che il resto lo scoprissero i lettori. L'ultima domanda che le voglio fare la traggo proprio dal suo libro, la cito, caro avvocato, e le chiedo: la cultura della sottrazione, la pirateria è un atto necessario? Allora, la pirateria è un atto necessario? Secondo me no. Io ritengo, come ho scritto, che comunque i pirati pagano tutto tranne che i contenuti, quindi pagano il computer, pagano le cuffie con cui sentono la musica, pagano la connessione a internet, pagano l'elettricità con cui alimentano il computer, pagano con il tempo che utilizzano per sottrarre le opere d'autore e non pagano la cosa più pregiata a cui accedono, che è appunto il contenuto stesso. Amartya Sen ha scritto un brevissimo saggio dedicato al diritto di proprietà e alla fame, e lui riteneva che il diritto di proprietà diventa un disvalore, cioè un valore negativo, se è atto a produrre la miseria. Per cui, tirando diciamo agli estremi del ragionamento di Sen, si potrebbe sostenere che chi ruba una mela perché ha fame non è giustificabile, in qualche maniera è giustificabile, ma qui non parliamo di cibo o di esigenze primarie che devono essere soddisfatte, anche se la cultura è importantissima e spesso è un bene primario, Comunque parliamo di soggetti che si appropriano di una cosa altrui, perché trattasi comunque di una cosa altrui, attraverso l'utilizzo di mezzi tecnologici, rinunciando a pagare quello, il giusto corrispettivo per godere dei beni artistici. Tornando però alla risposta che ho dato alla domanda precedente, probabilmente si potrebbe trovare anche un miglior punto di equilibrio nelle condizioni economiche con cui viene realizzata l'offerta culturale. Cioè, ci dobbiamo chiedere, è giusto che ogni brano che viene venduto su iTunes, ogni brano di un disco di Bob Dylan costa $1, oppure no? E quindi è corretto l'imposizione di questo prezzo quando i produttori risparmiano su tutto, perché quando vendono la musica cosiddetta liquida non hanno più il prezzo del CD, non hanno il prezzo di distribuzione, non hanno il magazzino, quindi perché la musica liquida di fatto costa quanto quella fisica? Ecco, una domanda del genere probabilmente ci può aiutare a interpretare il problema. Quindi la pirateria è un atto necessario, da un punto di vista strettamente morale certamente no, da un punto di vista più largamente economico ha una qualche, non voglio dire giustificazione, ha una ragione, ecco, non una giustificazione ma una ragione, che è una ragione di tipo appunto economica e non di altro tipo. La ringrazio, è stato davvero un piacere averla con noi, avvocato, e ricordo grazie ai nostri lettori questo saggio, e Mozart finì in una fossa comune, vizi e virtù del copyright, e diciamo con la prefazione anche di Aldo Grasso. Grazie mille, buona continuazione. Grazie a voi, grazie. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata e vi ricordano che questo programma è realizzato nel rispetto dell'articolo 70 della legge 633 sul diritto d'autore. Ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente.